Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. A Girgenti tutto il popolo si accalcava nel vasto piano fuori Porta di Ponte, all'entrata della città, in attesa che dalla stazione giù in Val Sollano arrivassero con le vetture di quella corsa i resti che si dicevano raccolti in una sola cassa di Nicoletta Capolino e di Aurelio Costa. Sbalordimento, angoscia, ribrezzo erano dipinti su tutti i volti per quell'efferato delitto che da due giorni teneva in subbuglio la città e tutta la provincia intorno. Antiche ragioni, per una almeno delle vittime, altre nuove che ora si divulgavano e accrescevano tra lo stupore e la pietà, se trattenevano il rimpianto, non potevano impedir la commiserazione per l'atrocità di quella morte, l'indignazione per l'infamia che si riversava per essa sull'intera provincia. Viva ancora, davanti agli occhi di tutti, era l'immagine della bellissima donna, quando altera, squisitamente abbigliata, passava nella vettura del salvo e chinava appena il capo per rispondere ai saluti con un sorriso quasi di mesta compiacenza. Tutti vedevano, entro di sé, con una strana nitidezza di percezione, qualche particolarità viva del corpo o dell'espressione di lei, il bianco dei denti appena trasparente tra il roseo delle labbra in quel sorriso, il brillare degli occhi tra le ciglia nere, e si domandavano con una indefinibile inquietudine chi avrebbe potuto immaginare allora che dovesse essere questa la sua fine. Per lasciare così d'un tratto gli agi e gli onori a cui col salvo amico e col marito deputato era salita, e prender la fuga con uno al quale prima aveva riposato ad unirsi in matrimonio, certo, il cervello doveva averle dato di volta. Ma forse per astio, ecco, per astio contro Dianella Salvo, che amava segretamente il Costa, e non si sapeva già che quella poverina, appena avuta la notizia della fuga e di quel macello, era impazzita come la madre. Dunque, dal tradimento quei due, da un'avventura che forse per uno solo di essi era d'amore e che già di per sé avrebbe suscitato tanto scandalo in paese, erano balzati a quella morte. Ma come e perché si erano diretti ad Aragona, dove egli doveva sapersi aspettato da quelle iene fameliche da tanti mesi per la chiusura delle zolfare del salvo? Ma perché alla volta di Girgenti, così fuggiti insieme, non potevano avviarsi. Quella fuga, più che in onta al marito, era in onta al salvo, e perciò là, appunto, s'era volta, dove tutti erano contro il salvo. Ma forse lei stessa, aveva voluto affrontare insieme il pericolo. Aveva animo fiero, quella donna, e aveva saputo mostrarlo di fronte a quell'orda di selvaggi, levandosi in piedi sulla carrozza, a fare scudo del suo corpo ad Aurelio Costa, e gridando che questi per loro s'era licenziato dal salvo per le promesse non mantenute. Ma quel ribaldo di Marco Preola aveva levato la voce: «Morte alla Sgualdrena!» E l'orda dei selvaggi, rimasta dapprima come sbigottita dalla temerità superba di quella signora, aveva avuto un fremito. Forse Nicoletta Capolino sarebbe riuscita a dominarla, a farsi ascoltare, se inconsultamente a quel grido di morte, a quell'ingiuria volgare, Aurelio Costa non fosse balzato in difesa di lei con l'arma in pugno. Allora la carrozza era stata assaltata da ogni parte. E l'uno e l'altra, tempestati prima di coltellate, di martellate, erano stramazzati, poi sbranati addirittura, come da una canea inferocita. Anche la carrozza, anche la carrozza era stata sconquassata, ridotta in pezzi. E quando sulla catasta formata dai razzi delle ruote, dagli sportelli, dai sedili, erano stati gettati i miserandi resti irriconoscibili dei due corpi, s'era visto uno versare su di essi da un grosso lume d'ottone trafugato dalla vicina stazione ferroviaria il petrolio. E tanti, con cupida ansia affannosa, appiccare il fuoco, come per togliere subito ai loro stessi occhi l'atroce vista di quello scempio. Due giorni dopo arrivò a Girgenti, inatteso, funebre, l'onorevole Ignazio Capolino. La condizione in cui lo aveva messo non tanto forse la sciagura improvvisa quanto lo scatto violento per cui Dianella Salvo aveva perduto la ragione era così difficile e incerta che egli aveva bisogno di raccogliere a consulto lì sul posto tutte le sue forze per trovare una via da uscirne in qualche modo al più presto. Lo scandalo della fuga della moglie era soffocato nell'orrore della morte. Il tragico che spirava da questa morte lo rendeva immune dal ridicolo che poteva venirgli da quella fuga. Bastava dunque presentarsi ai suoi concittadini con punto nell'aspetto, ma nello stesso tempo austeramente riservato per trarre profitto della commozione generale, senza tuttavia parteciparvi, giacché dalla moglie era stato offeso. La simpatia degli altri doveva venirgli come giusto e meritato compenso a questa offesa. E dovevano tutti vedere che egli soffriva, schiantato dall'atrocissimo fatto, e che lui più di tutti meritava compianto, poiché finanche dalle due vittime tanto commiserate era stato offeso, così da non poter piangere, neanche piangere ora, la sua sciagura. Il dolore? Che dolore! Non poteva riconoscere d'aver provato dolore, se non forse orora un poco. Ma no! Anche prima, in fondo, aveva certo dovuto provarne uno, e ben grande, se a Roma, all'annunzio della sciagura, era stato accecato da quella rabbia che lo aveva scagliato su Dianella Salvo. Doveva pentirsi di quello scatto? Si aveva con un senso attirato per sempre l'odio, la nimicizia mortale del Salvo. Ma seppur fosse riuscito a reprimersi in quel primo momento, a vietarsi la soddisfazione feroce di quella vendetta, che avrebbe ottenuto? A lui, restato solo, senza più la moglie, avrebbe forse Flaminio Salvo seguitato a dare aiuto e sostegno per il rimorso e la complicità segreta nel sacrificio di quella? Così pensando, Capolino brancicava con le dita irrequiete la medaglietta da deputato appesa alla catena dell'orologio. Aveva per sé ancora il prestigio che gli veniva da quella medaglietta. Per ora il Salvo non poteva strappargliela dalla catena dell'orologio. E con essa, per uno che valeva, se non più certo, non meno del Salvo in paese, egli era ancora il deputato. Don Ippolito Laurentano non avrebbe permesso che colui che rappresentava alla Camera il paladino della sua fede si dibattesse tra meschine difficoltà materiali. Ecco, subito, prima che Flaminio Salvo arrivasse a Girgenti e si recasse a Colimbetra a preoccupare l'animo del principe contro di lui, egli vi correrebbe e parlerebbe aperto a Don Ippolito della perfidia di colui. Dopo tanti mesi di convivenza con donna Adelaide, non doveva il principe essere in animo da tenere più tanto dalla parte del cognato. Oltre che, in favor suo, egli avrebbe in quel momento la commiserazione per la sua sciagura. Poteva, sì, contro a questa il Salvo porre in bilancia quella della propria figliuola, ma appunto su ciò egli andrebbe a prevenire il principe, dimostrandogli che non lui, con quel suo scatto naturale e legittimo nella rabbia del cordoglio, era stato cagione di quella pazzia, ma il padre stesso, che con tanta violenza aveva voluto impedire che la figlia sposasse il Costa, sacrificando costui e distruggendolo insieme con la moglie. Ora, per liberarsi d'ogni rimorso, voleva gettar la colpa addosso a lui e anche di lui sbarazzarsi, come già del Costa e della moglie. Il salotto era pieno zeppo di gente quando entrò il D'Ambrosio, quello che gli aveva fatto da testimonio nel duello col Veronica e che era lontano parente di Nicoletta Spoto. Avvenne allora una scena che neanche se Capolino l'avesse preparata apposta gli sarebbe riuscita più favorevole. Il D'Ambrosio entrò tutto gonfio di commozione e con le braccia protese. In piedi, tutti e due si abbracciarono in mezzo alla stanza, si tennero stretti un pezzo, piangendo forte. E forte, con la sua abituale irruenza, parlò il D'Ambrosio, staccandosi dall'abbraccio. «Dicono tutte qua che Nicoletta, mia cugina, era l'amante di quell'imbecille del Costa. È vero? Tu puoi dirlo meglio da tutti. È vero?» Sbigottiti, gli astanti si volsero a guardare il Capolino. Questi cadde a sedere, come trafitto sulla poltrona, con le braccia abbandonate sulle gambe, e scosse amaramente il capo. Poi, facendo un atto appena appena con le mani, parlò: troppe cose dovrei dire che non posso. Anche la pietà, capirete, sì. Sì, anche queste lacrime, amici, mi bruciano. Perché anche da quei due, io ebbi del male. Ma soprattutto da chi li guidò a quel passo, da chi li teneva in bugno e... «Il Salvo!» proruppe il D'Ambrosio. «Hanno arrestato ad Aragona Marco Preola, ma lui, il Salvo, per la Madonna, debbono arrestare! Lui affamò là tutto il paese, lui è il vero assassino, e giustamente Dio l'ha punito con la pazzia della figlia, così, tra due pazze, se ne starà ora con tutte le sue ricchezze!» Capolino allora scattò in piedi, sublime. «Per carità, no, io non posso permettere che si dicano di queste cose alla mia presenza. Vuoi difendere quegli assassini? Via! E sappiamo tutti che il Salvo era nel suo diritto, chiudendo là le zolfare. Ognuno provvede, come sa e crede, ai propri interessi. E del resto, non si è forse adoperato in tanti modi qua al risorgimento dell'industria? No, signori miei, vedete, parlo io. Io in questo momento, e arrivo forse a dirvi che egli, dal suo canto, anche come padre, ha creduto di agire per il bene della figliuola. Voi tutti non avete alcuna ragione per non riconoscer questo. Potrei non riconoscerlo io, ma io solo, perché i mezzi di cui si è servito mi hanno distrutto la casa e spezzato la vita. Ma egli mirava là al bene di tutti quei bruti, e qua al bene della sua figliuola. 10, 15, 20 mani si tesero a Capolino in un prorompimento d'ammirazione per così magnanima generosità, e Capolino si sentì levato di un cubito sopra se stesso. «Forse mi vedrò costretto», soggiunse con triste gravità, «a restituirvi il mandato di cui avete voluto onorarmi». «No, e che c'entra questo? E perché?» protestarono alcuni. Capolino, sorridendo mestamente, levò le mani ad arrestare quell'affettuosa protesta. «La condizione mia», disse, «considerate. Potrei avere più rapporti, non dico di parentela o d'amicizia, ma pur soltanto di interessi con Flaminio Salvo. No, certo. E allora? Devo provvedere a me stesso, signori miei, mentre il mandato che ho da voi esige un'assoluta indipendenza, quella appunto che avevo per i miei uffici nel Banco del Salvo. Ora bisognerà che mi raccolga a pensar seriamente ai miei casi. Non son cose da decidere così su due piedi e in questo momento». Flaminio Salvo non volle lasciare a Roma Dianella in qualche casa di salute, come i medici, la sorella e il cognato gli consigliavano. Disse che, semmai, l'avrebbe lasciata in una di queste case a Palermo per averla più vicina e poterla più spesso visitare. ma la sua casa ormai, soggiunse, poteva pur trasformarsi in uno di questi privati ospizi della pazzia, sotto il governo di uno o più medici e con l'assistenza d'altre infermiere adatte. Vi restava egli solo, provvisto di ragione, ma sperava che presto, con l'esempio e un po' di buona volontà, la perderebbe anche lui. Quando fu sul punto di partire, però, si vide costretto a ricorrere a Lando Laurentano perché gli desse a compagno di viaggio Mauro Mortara, da cui Dianella non avrebbe voluto più staccarsi e che forse era il solo che avrebbe potuto indurla a uscire da uno stanzino buio ove s'era rintanata e a partire. Lando Laurentano, che si preparava in gran fretta, anche lui chiamato a Palermo dai compagni del comitato centrale del partito, rispose al Salvo che avrebbe potuto fare insieme il viaggio e che la mattina seguente sarebbe venuto con Mauro a prenderlo in casa Vella. Flaminio Salvo notò nell'aspetto, nella voce e nei gesti del giovane principe una strana agitazione febbrile e fu più volte sul punto di domandargliene premurosamente il motivo, ma se ne astenne. Lando Laurentano era in quell'animo per una ragione a cui il Salvo non avrebbe potuto neppur lontanamente pensare in quel momento, cioè l'enorme impressione prodotta in tutta Roma dal suicidio di Corrado Selmi. Se n'era divulgata la notizia la sera stessa, mentre egli usciva con Mauro da casa Vella. Il grido di un giornalaio gliene aveva dato l'annunzio. Aveva fatto fermare la vettura per comprare il giornale, ma anziché dargli gioia, quell'annunzio improvviso lo aveva in prima stordito. Aveva ordinato al vetturino d'accostarsi a un fanale per leggere, nonostante l'impazienza di Mauro. Aveva saltato il lungo commento necrologico premesso alle notizie sul suicidio ed era corso con gli occhi a queste. Dal racconto del cameriere del Selmi aveva saputo prima l'aggressione a mano armata del nipote di Roberto Auriti, quando già il Selmi aveva ingoiato il veleno. Poi una visita che il giornalista diceva drammaticissima al Selmi appena spirato di una donna velata, di cui per degni rispetti non si faceva il nome. Accorsa, seguitava il cronista, ignara del suicidio, forse per dare aiuto e conforto all'amico dopo la sfida da lui lanciata la mattina all'intera assemblea. Lando Laurentano non aveva avuto alcun dubbio che quella dama velata fosse donna Giannetta D'Atri, sua cugina, e aveva strappato il giornale con schifo e con rabbia, gridando al vetturino di correre a casa. Qua aveva trovato in smaniosa ambascia Celsina Pigna e Olindo Passalacqua, che cercavano disperatamente Antonio del Re scomparso dalla mattina. Erano sembrate così inopportune a Lando in quel momento la vista buffa di quell'uomo, le smaniette di quella ragazza, tutta quell'ansia attorno a lui per la ricerca di un giovane che egli non conosceva e che era tanto lontano dai suoi pensieri, che aveva avuto, contro il suo solito, un violento scatto di ira. Aveva chiamato Raffaele, il cameriere, per ordinargli di mettersi a disposizione di quei due ed era rimasto solo con Mauro. Questi, interpretando quello scatto come un segno di sprezzante noncuranza per l'arresto del cugino, non si era potuto trattenere. Gli si era fatto innanzi, tutto acceso di sdegno, gridando: «Ma voglio andare subito! Me ne voglio andare, ora stesso! Non voglio più guardarmi in faccia! Mauro, Mauro, Mauro!» aveva esclamato Lando, scotendo in aria le mani afferrate. Mauro allora s'era cacciato una mano in tasca per trarne fuori le medaglie. «Guardate! Dal petto! Me l'ero strappate! Davanti al delegato, quando ho visto arrestare vostro cugino! Ora, quella ragazza è venuta a riportarmele. Ma che sangue avete voi nelle vene? È questa la gioventù d'oggi! È questa! La gioventù!» s'era messo a rispondere con veemenza Lando, ma s'era subito frenato, premendosi forte le pugna serrate sulla bocca e andando a sedere coi gomiti sulle ginocchia e la testa tra le mani. La gioventù. Che poteva la gioventù se l'avara, paurosa, prepotente gelosia dei vecchi la schiacciava così, col peso della più vile prudenza e di tante umiliazioni e vergogne? Toccava a lei l'espiazione rabbiosa nel silenzio di tutti gli errori e le transizioni indegne, la macerazione d'ogni orgoglio e lo spettacolo di tante brutture. Ecco come l'opera dei vecchi qua, ora, nel bel mezzo d'Italia, a Roma, sprofondava in una cloaca, mentre su, nel settentrione, si irretiva in una coalizione spudorata di loschi interessi, e giù, nella bassa Italia, nelle isole, vaneggiava, apposta sospesa, perché vi durassero l'inerzia, la miseria e l'ignoranza, e ne venisse al Parlamento il branco dei deputati a formar le maggioranze anonime e supine. Soltanto in Sicilia, forse, ora, la gioventù sacrificata potrebbe dare un crollo a questa oltracotante oppressione dei vecchi e prendersi finalmente uno sfogo e affermarsi vittoriosa. Lando era balzato in piedi per gridare questa sua speranza a Mauro Mortara, ma s'era trattenuto per carità alla vista di lui che piangeva con quelle sue pietose medaglie in mano. Appena Mauro Mortara, arrivato a Girgenti, poté strapparsi dalle braccia di Anella Salvo, corse di furia alla casa di donna Caterina Laurentano. Vi trovò Antonio del Re ancora tra le braccia della madre, che invano, stringendolo, scotendolo e smaniando, cercava di riscuoterlo. Come Anna vide entrar Mauro, gli corse incontro, lasciando il figlio. «Che ha? Che ha? E ditemi voi, che ha? Che gli hanno fatto?» Ma il Mortara le scostò le braccia e gridò più forte di lei. «Vostra madre! Dov'è vostra madre?» Sopravvenne Giulio, in pochi giorni invecchiato di 10 anni. Negli occhi, nelle braccia protese, aveva la speranza di aver da Mauro qualche notizia precisa sull'arresto di Roberto e sul suicidio del Selmi, se questi veramente avesse lasciato qualche dichiarazione in favore del fratello, come dicevano i giornali. Dal nipote non aveva potuto saper nulla, per quanto tra le braccia della madre lo avesse furiosamente scrollato per farlo parlare. Ma il Mortara scostò anche lui, ripetendo, testardo e violento: «Vostra madre! Non so nulla! So che l'hanno arrestato sotto i miei occhi. Io non voglio vedere nessuno. Io voglio vedere lei sola!» Giulio restò perplesso se permettergli di entrare nella camera della madre così all'improvviso. Dal giorno che egli, sotto l'urgenza della necessità, vincendo ogni riluttanza, dapprima con circospezione, poi risolutamente, con crudezza, le aveva detto che bisognava si recasse dal fratello Ippolito per salvare il figlio, era caduta di schianto in un attonimento quasi di apatia, come se la vista di tutte le cose intorno le si fosse a un tratto vuotata di ogni senso. Non un gesto, non una parola, più niente. E quella immobilità e quel silenzio avevano avuto fin da principio un che di così assoluto e invincibile che né un gesto né una parola erano più stati possibili agli altri per scuoterla o esortarla. Giulio sapeva che avrebbe ucciso la madre parlando, e difatti, ecco, subito parlando, l'aveva uccisa. Ella non poteva andare dal fratello per salvare il figlio, sarebbe stata la sua morte, ed ecco, era morta. Fuori di quella madre, fuori della Sicilia, Giulio fin da giovinetto aveva preso mondo. Era vissuto senza né ricordi, né affetti, né aspirazioni, quasi giorno per giorno, freddo, svogliato, ironico, sdegnoso. D'improvviso, quando men se l'aspettava, il destino della sua famiglia aveva allungato una spira a involgerlo, a invilupparlo, e lo aveva attratto a sé e piombato là, a reinnestarsi, a riaffiggersi alla radice da cui s'era strappato, a sentire tutto ciò che non aveva voluto mai sentire, a ricordarsi di tutto ciò di cui non aveva voluto mai ricordarsi. La fine di colei che aveva sempre e tutto sentito e di tutto e sempre si era ricordata, schiantata ora dall'urto con cui egli era tornato a reinnestarsi in lei, non doveva essere stata il senso, anche la sua fine. Schiantato il tronco, schiantati i rami. Mauro entrò come un cieco nella camera quasi al buio, chiamando forte, con affanno di commozione. «Donna Caterina! Donna Caterina!» Restò davanti al letto, alla vista di quella faccia volta al soffitto, sui guanciali ammontati, cadaverica, con gli occhi che si immaginavano torbidi e densi, di disperata angoscia, sotto la chiusura perpetua delle gravi palpebre annerite, con una ostinata, assoluta volontà di morte negli zigomi tesi, nelle tempie affossate, nelle pinne stirate del naso aguzzo, nelle lividi, sottili labbra, non solo serrate, ma anche in qualche punto attaccate dall'essiccamento degli umori. «Oh, figlia! Figlia!» esclamò. «Donna Caterina, sono io, Mauro, il cane guardiano di vostro padre. Guardatemi, aprite gli occhi. Da voi voglio essere guardato. Aprite gli occhi, donna Caterina. Guardando me, guardate la vostra stessa pena. Sentitemi, devo dirvi una cosa. Torno da Roma». Urtando contro la rigida impassibilità funerea della morente, la commozione di Mauro Mortara si spezzò a un tratto in striduli singhiozzi, molto simili a una risata. L'agrò e Giulio, anch'essi piangenti, se lo presero in mezzo e, sorreggendolo per le braccia, lo trassero fuori dalla camera. La morente, rimasta sola nell'ombra, immobile sui guanciali ammontati, udì tardi la voce, come se questa avesse dovuto far molto cammino per raggiungerla nelle profonde lontananze misteriose ove già il suo spirito s'era inoltrato. E da queste lontananze, in risposta a quella voce, tardi venne alle sue palpebre chiuse una lacrima, ultima che nessuno vide. Sgorgò da un occhio, scorse sulla gota, cadde e scomparve. Quando Pompeo Agrò tornò a sedere sulla poltrona a piè del letto, né più nell'occhio né più sulla gota ve n'era traccia. Donna Caterina era morta.